So, what I wanted to do this evening was to talk about the different ways that the West has received Buddhism. E ciò di cui volevo parlare stasera sono i modi diversi con cui l'Occidente ha recepito il buddismo. We say that the Buddha's teaching very easily adapts itself to the culture. È stato detto che il buddismo si adatta alle culture in modo molto facile. But it's more true to say that the culture receives Buddhism through its own ways of looking. Forse è meglio dire che le culture ricevono il buddismo attraverso il loro modo di guardare. There are four ways in which we receive Buddhism, as far as I can see. Ci sono quattro modi in cui si potrebbe vedere il buddismo così come la vedo io. The first one is through the Abrahamic religions. Il primo è attraverso la religione di Abramo. So it's Judaism, Christianity, Islam. Quindi giudaismo, il cristianesimo e l'Islam. And through what we call scientific materialism. E poi attraverso il materialismo scientifico. Then there's romanticism. Poi c'è il romanticismo. And finally, psychotherapy. E infine la psicoterapia. I have nothing against psychotherapy. Io non ho niente contro la psicoterapia. So, just taking Christianity or the Judeo-Christian tradition. Allora, prendiamo la tradizione giudaico-cristiana. You often find a certain rejection of the Buddhist worldview. Si trova di solito un certo rifiuto del modo di vedere buddista. And it's seen as life negative. Perché si sembra che la vita sia negativa. It's about rejecting the world. È che sembra che sia un rifiuto del mondo. This is the basic thesis of the book by Albert Schweitzer. Questa è la tesi principale del libro di questo autore. Albert Schweitzer was a German theologian. A German theologian. Un teologo tedesco era. And he wrote a book, I think it's called just Buddhism and Christianity, or Christianity and Buddhism. Scrisse un libro che dovrebbe essere intitolato Buddhismo e Cristianesimo, o Cristianesimo e Buddhismo. And this was the first book I read on Buddhism. E questo è il primo libro che io ho letto sul buddismo. And the book was telling me that Buddhism was completely life negative, and Christianity was completely life positive. E questo libro mi diceva che il buddismo dava un senso negativo alla vita completamente, mentre il cristianesimo ne dava uno positivo completamente. And this interpretation was even propagated by the Pope John Paul II. E questa interpretazione è stata propagata anche dal Papa Giovanni Paolo II. The world is bad, a source of suffering and evil to man. Il mondo è cattivo, c'è la sofferenza, c'è il male. Whereas the Catholics had a positive view on life. Mentre i cattolici davano delle visioni della vita positive. Now, when a Christian becomes a Christian or Jew becomes a Buddhist. Allora, quando un cristiano o un ebreo diventa buddista, It's very difficult to drop the idea of a personal God. È molto difficile mandar via l'idea di un Dio personale, personificato. And the texts are often reinterpreted to suggest that there is one. E spesso i testi sono reinterpretati come per suggerire che in realtà ce n'è uno, c'è questo Dio. Yeah, and I read an article by a famous teacher, well, he's well known teacher. E ho letto un articolo di un famoso insegnante ben conosciuto. in which he asked his rabbi, in which he asked his rabbi, nel quale lui chiede al suo rabbino, about God, riguardo a Dio, and the rabbi said, I'm a person, so God must be a person. E la risposta del rabbino è, io sono una persona, quindi anche Dio deve essere una persona. Yeah. And somehow he didn't seem to argue against that. Somehow he didn't seem to argue against that. E lui non sembra discutere questa cosa. Even though he must have known that according to the Buddha's teaching, the person has no self-existence. It's not real. Anche se lui dovrebbe sapere che nell'insegnamento buddista una persona non ha un'esistenza reale. In Buddhist understanding, a personal God is a projection of yourself onto the universe. Nella concezione buddista, un Dio personificato è la proiezione della tua idea di te sull'universo. Now that isn't held by the mystical view in Christianity. That's not held by the mystical view in Christianity. Questo non è sostenuto dai mistici del cristianesimo. There's a writer called Bernadette Roberts. C'è uno scrittore, Bernadette Roberts, who was a Carmelite nun. She was a Carmelite nun. Era una monaca carmelitana. Carmelitana. And she left the order, had children, an ordinary lay life. Lei lasciò l'ordine, ha avuto bambini, una vita comune. And she went through a real process of awakening. È andata incontro a un vero processo di risveglio. And she wrote a book called No Self. E ha scritto un libro sul nessun sé. And there's one sentence which is italicized. Una frase che è messa in maiuscolo. When there's no self, there's no personal God. Dice così, quando non c'è il sé, non c'è un Dio personificato. And yet you'll find some writers trying to match Buddhism with Christianity on that sort of belief. E comunque, nonostante questo, si trovano degli scrittori che cercano di far combinare il buddismo con la cristianità secondo questa credenza. These biases are in all of us. Questo condizionamento è in tutti noi. If you've been brought up a Christian, it'll be there, the way you look at the Buddhist scriptures. If you've been brought up a Christian. Ah, sì, se sei stato cresciuto come cristiano e ti porti dietro questa idea alle cose. Alle scritture. So that's one particular thing that we have to investigate. E quindi questa è una cosa in particolare che dobbiamo investigare. The other one is romanticism. L'altra è il romanticismo. And I'm indebted to an article in Tricycle by Tanissaro Bhikkhu. I am thankful to Tanissaro Bhikkhu for his article. Sono grato a Tanissaro Bhikkhu for his article. Per il suo articolo, which points out that the Romantic period was a reaction to industrialization and rationalism. E lui dice che il periodo romantico è stato una reazione all'industrializzazione e al razionalismo. And the romantics went back to art, spontaneity, art spontaneity at one with nature. E l'idea romantica andava a parlare di di arte, di spontaneità e di essere uno con la natura. So these ideas of oneness with everything come to us from that romantic period. E quindi questa idea di essere uno con il tutto viene da quel periodo romantico. And I think I'm right in saying that even the idea of consciousness being everywhere was also an idea within the Romantic movement. And also the idea that consciousness was everywhere. L'idea che c'è una coscienza dappertutto. Cioè in tutte le cose c'è una coscienza, questa idea viene anche questa dal periodo, dal movimento romantico. And this goes back to the Greeks with panpsychism. E questo va indietro nel tempo fino ai greci con il panteism, psychism is the mind everywhere, one consciousness. Panpsichismo? Yeah. Panpsychismo, yeah. Panpsychismo. So it's all one consciousness, and we absorb into it. We become one with it. C'è una unica coscienza in cui tutti noi ci assorbiamo e diventiamo uno con quella. So we tend to read into the Buddha's teachings that's how really our work is to make life happy, joyful, etc. And so our work is to make life. Okay, il nostro lavoro è di far diventare la vita felice e gioiosa. And to break down the barriers between us. E di rompere le barriere che ci sono tra di noi. Ah, which is in the Buddha's teachings. E questo è nell'insegnamento buddista. But it's not the thrust of his teaching, you see. Ma non è la cosa principale di questo insegnamento. Mm. There's a quote he gives: when our identity expands to include everything. Allora, questa è una citazione. Quando la nostra identità si espande a includere il tutto, we find a peace with the dance of the world. Noi ci troviamo in pace con the dance. La danza del mondo. Yeah. Now that's romanticism. Questo è romanticismo. I don't think it'd be difficult to find where the Buddha talks about extending your identity. È difficile trovare dove il Buddha può aver detto di estendere la propria identità. The whole idea is to get rid of your identity. L'idea principale è di liberarsi della propria identità. So without us knowing, when we read the Buddhist scriptures, we are interpreting what we read. Quindi, senza questa conoscenza, quando noi leggiamo le scritture buddiste, noi le reinterpretiamo. The third one would be scientism. Il terzo è lo scientismo. Scientismo. Sì, così. Scientism is a materialistic religion, you might say. Potrei dire che è una religione materialista. Even in the Buddha's time there were materialists. Anche ai tempi del Buddha c'erano i materialisti. By which we mean everything dies, even you disappear, you annihilate. Cioè il significato è che tutto muore e anche te morirai e scomparirai e ti disintegrerai. Everything annihilates. Tutto si disintegra. So therefore, what we have to do is live as happily as we can. E quindi tutto quello che noi dobbiamo fare è di vivere nel modo più felice possibile. So scientific materialism, I have a sort of definition here. Qui ho una specie di definizione del materialismo scientifico. Scientism is a broad belief. Lo scientismo è un credo esteso. That the assumptions and methods, ma le assunzioni e metodi of research of the physical and natural sciences, della ricerca della physical, delle scienze fisiche naturali, are equally appropriate. Sono ugualmente appropriate. And even essential. And even essential. E essenziale. E perfino essenziale. To all other disciplines. Per tutte le discipline. Including philosophy, humanities. Incluso la filosofia, le scienze umane, social sciences, scienze sociali, and although it doesn't say here, religion. E non lo dice, ma anche la religione. So, scientism is stating that everything is based upon, first of all, physics. Lo scientismo dice che tutto è basato, prima cosa, sulla fisica. And out of physics you get chemistry, e da lì viene la chimica, and from chemistry you get biology, e dalla chimica la biologia, and from biology you get sentient beings, society, e dalla biologia gli esseri senzienti e la società. And when your life comes to an end, that's it. E quando la tua vita arriva alla fine, è finita. Toodaloo. just a way of saying goodbye. Toodaloo. There's a wonderful essay. If you want to see the problems with this, c'è un meraviglioso saggio se volete vedere I problemi con questa cosa. It's an essay quite old now. I think in the 90s. È abbastanza vecchio, ora è degli anni 90. By a man called Nagel, a philosopher Nagel. Un filosofo, Michael. No, just Nagel. Nagel. Nagel, I can't remember his first name. Ah, ok, non ci ricordiamo il nome di battesimo. What does it feel like to be a bat? Come ci si sente essere un pipistrello? Is a problem, eh? È un problema. You see, the problem is, how can you explain your own personal feelings and thoughts? How does that match up with the chemistry of your brain? Quindi il problema è come puoi spiegare le tue sensazioni e I tuoi pensieri, come questo si combina con la chimica del tuo cervello. Now, somebody who believes in science will say, in the goodness of time, we will discover this. Qualcuno che crede nelle scienze, nello scientismo, potrebbe dire che in un certo tempo arriveremo a capirlo. So that's what all belief does. That's what belief does. That's what belief does. E questo è ciò che fa il credere. It produces an answer to every question by saying, in the fullness of time, this will be answered. Il credere produce una risposta a tutte le domande dicendo, sì, a un certo punto si scoprirà anche questo, si capirà. There's another philosopher called Chalmers. C'è un altro filosofo, chiama, di cui ha detto il nome. Chalmers. Non fa niente. He isolated this problem. Lui ha isolato questo problema. He called it the hard problem of consciousness. L'ha chiamato il problema base della coscienza. Hard. Difficile. Yes, not hard. Hard. No, difficile, yeah. Il problema più difficile della coscienza. So, the problem is explaining the relationship. Il problema è di spiegare la relazione between physical phenomena, tra I fenomeni fisici, such as the brain processes, come I processi del cervello, and experience, e l'esperienza. phenomenal conscious states. Phenomenal consciousness, excuse me. Phenomenal consciousness. La coscienza fenomenica. Which means all the things that you've been experiencing while you've been sat here. Che significa tutte le cose che, di cui hai fatto esperienza mentre eri qui. So all your thoughts, your emotions, your feelings and so on. Quindi pensieri, emozioni, sensazioni, eccetera. There's if you put his name in TED Talks, you know TED Talks? TED? Ah. Se mettete il suo nome in questa cosa. TED. Sì. TED is T-E-D. Come si dice questo in italiano? TED, ecco, TED, TED. È una roba della televisione. Non sì. Ho la... you... ah. A video de, of talks. Ah. You can get the talks translated. Ah, si può avere questi discorsi tradotti. Yes, C-H-A-L-M-E-R-S. Chalmers. Chalmers. He is positing that consciousness is one of the building blocks of the cosmos. Secondo lui la coscienza è uno dei blocchi con cui si costruisce il cosmo. Mass, energy. Massa, energia. Space, time. Spazio, tempo, and consciousness. E coscienza. I think he uses something else, but in other words, consciousness is at the ground of this universe. Quindi la coscienza è una delle basi dell'universo. And then he tries to suggest that maybe this consciousness is everywhere. E poi cerca di suggerire che forse questa coscienza è dappertutto. So we're back to panpsychism. E quindi si ritorna al panpsichismo. So this is a real problem for people who believe that you can reduce everything to physical, to subatomic particles, subatomic energy. Questo è un problema per le persone che credono di ridurre tutto a livello delle particelle subatomiche. When somebody approaches Buddhism with this belief, quando uno si avvicina al buddismo con questa credo, questa credenza, they've got to get rid of rebirth. They got to get rid of rebirth. Ah, devono liberarsi in qualche modo della rinascita. And they have to get rid of the idea of something transcendent, nirvana. E anche devono liberarsi dell'idea di qualcosa di trascendente, nirvana. Nirvana, see? So they have, because that doesn't make sense in a life which begins and ends and that's it. Perché questo non ha senso in un tipo di vita che inizia e finisce e questo è tutto. And they can approach the scriptures not from a scientific point of view. Allora si avvicinano le scritture non da un punto di vista scientifico, but to develop a way of criticizing the scriptures so that they come up with this conclusion. Ma per sviluppare un modo di criticare le scritture così che possano venire fuori con questa conclusione. So for instance, one teacher might say, if the Buddha teaches anything that another teacher taught, per esempio un insegnante potrebbe dire, se il Buddha dice qualche cosa che un altro maestro ha detto, this was added to the scripture and is not the Buddha's teaching. Questo è stato aggiunto alle scritture e non fa parte dell'insegnamento buddista. What this does is, it brings you right down to the Four Noble Truths. E quindi si riduce tutto alle quattro nobili verità. The dependent origination that we talked about last night. L'originazione dipendente. And some idea of morality. E qualche idea della moralità, della morale. Sì? And you can build up a Buddhism on that basis. E potresti costruire un buddismo su queste basi. Ah. But obviously to get there, you've had to say that certain things that is put into the Buddha's mouth were never said by him. Ah, e però per fare questo devi concludere che certe cose sono state messe in bocca al Buddha, ma lui in realtà non le ha mai dette. After this I'll try and explain the Buddha's teaching and how, in my view, of course, my humble view, after this I'll explain the Buddha's teaching. This introduction. Dopo questa introduzione, I'll explain the Buddha's teaching. Io spiegherò le lezioni that explain. Yes, I'll explain the Buddha's teachings. Sì, spiegherò l'insegnamento buddista. From my own point of view, dal mio punto di vista, which of course may be equally biased, che naturalmente può essere ugualmente condizionato. We have people who are grounded really in scientism reinterpreting the Buddha's teachings. Quindi ci sono delle persone che sono veramente affondate, radicate nel scientism, che reinterpretano le scritture buddiste. And it's, the interpretation itself is not wrong. In sé l'interpretazione non è sbagliata. It's what's missed out. It's what has been missed out. What has been taken out of the equation. Il problema è quello che è stato tolto. The final one is psychotherapy. E alla fine abbiamo la psicoterapia. And I know I have psychotherapists in this room. So che ci sono degli psicoterapisti in questa stanza. So I hope you don't have any bricks. Spero che non abbiate nessun mattone. I think I'm right in saying that psychotherapy medicalizes our situation. Credo di essere giusto se dico che la psicoterapia medicalizza la nostra situazione. So it becomes a sort of something that has to be, that is not recognized particularly as a moral problem. E quindi diventa un qualche cosa che non deve essere riconosciuto particolarmente come un problema morale, but more in the sense of mental disturbances and so on. Ma più nel senso di disturbi mentali e così via. And again, as you know, with the mindfulness movement, Buddhist practice has entered the mainstream. Sapete che nel movimento di mindfulness, detto della mindfulness, la pratica buddista è entrata nella strada principale. Now, when mindfulness is taught, it's taught the person is led to understand how that reaction they are having to their situation is causing further problems. Quando si insegna la mindfulness, si insegna alle persone a vedere quali delle loro reazioni a una certa cosa li può dare dei problemi, li crea dei problemi. And it's been very successful. E questo ha avuto molto successo. With CBT, CBT, CBT, CBT, ecco, which is a cognitive behavioral. Okay. Terapia cognitivo comportamentale. Questo ha avuto molto successo. This coupled with mindfulness has been very successful. E accoppiato con la mindfulness. Has been very successful. Ha avuto molto successo. So it helps people with depression. Aiuta le persone depresse. Because they realize that part of the problem is they're getting depressed about being depressed. Perché capiscono che una parte del problema è che loro si deprimono riguardo al fatto di essere depressi. Ah, so this is also with panic. Anche nel panico. John Teasdale, who is one of the main people who studied all this, John Teasdale è una delle principali persone che ha studiato questa cosa. Told me that over 90% of people who study panic, people who suffer panic, don't suffer again after this treatment. E lui mi ha detto che quasi il 90% delle persone che soffrono di panico non ne soffre più dopo questo trattamento. Ah, so in other words, remember, panic is the fear of fear. E quindi, in altre parole, il panico è la paura della paura. So, if one can become accustomed to the feeling of fear, then there is not that reaction. E quindi, se uno può abituarsi alla sensazione di paura, non c'è più questa reazione. But again, it's sort of taking a little bit out of the teaching to fit the purpose of psychotherapy. Ma ancora è un caso in cui si tira fuori qualcosa dalle scritture per aiutare la visione della psicoterapia. Ah. So the purpose of psychotherapy, and I stand to be corrected. E lo scopo della psicoterapia, credo di essere corretto, is so that people can live an ordinary, general, happy life. È che le persone possano vivere una vita normale e felice. Mm. So there's no teaching about the end of suffering. Non c'è un insegnamento sulla fine della sofferenza. There's no teaching about not self. Non c'è nessun insegnamento del non sé. Oh, that'd be too much. Eh? And there's no teaching about transcendence. E non c'è insegnamento sulla trascendenza. So again, depending on your own point of view. E quindi, in dipendenza del proprio punto di vista, You will interpret the Buddha's teachings. E si fa un'interpretazione delle scritture buddiste. So I'm now going to try. Non proverò. To give you the Buddha's teachings. A darvi gli insegnamenti buddisti. Without any prejudice. Senza nessun pregiudizio. So help me God. Che Dio mi aiuti. So, if we which God? Che Dio. If we go right back to an essential statement the Buddha made. Se noi andiamo indietro a una frase essenziale che il Buddha disse. He said he only taught dukkha and the end of dukkha. Lui disse che insegna solo dukkha e la fine di dukkha. Ah. Now, remember, dukkha we translate as suffering, unsatisfactoriness. Ricordate che di solito si traduce dukkha come sofferenza o insoddisfazione. And if we remember from last night, the problem lies in a mistake that we've made. E se vi ricordate da ieri sera, il problema è in un errore che si fa. We have identified with this form, the human being. Noi ci siamo identificati con questa forma di essere umano. Which is perfectly understandable. Eh? Che è perfettamente comprensibile. Ah. And because of that, in our search for happiness. E a causa di questo, nella nostra ricerca della felicità, We have formed a distorted view of the world. Noi ci siamo formati una visione distorta del mondo. We want the world to make us happy. Noi vogliamo che il mondo si renda felice. And so, if you remember, we acquire things. E quindi, se vi ricordate, noi acquisiamo delle cose. Ah. So, you know, there's money, power, quindi c'è fame, denaro, potere, fama, friends, amici, sì. Art, l'arte, yeah. Even nature, we want nature to make us happy. Anche la natura, vogliamo che la natura ci renda felici. Ah. So this acquisitiveness means that we have a relationship of dependency on what we own. Quindi questa qualità di acquisitiveness, che acquisitività, non so se c'è, sì, questa, diciamo, tendenza all'acquisire, ci crea una relazione di dipendenza con le cose che ci rendono felici. Ecco. So then, if you remember, other people want what we have. E quindi, se vi ricordate, tutte le altre persone vogliono quello che noi abbiamo. And so we find ourselves in contradiction with others. E quindi ci troviamo in contraddizione con gli altri. And in contradiction with the world. E anche in contraddizione col mondo. Ah, sometimes we want to go out and enjoy nature and it's raining. Ad esempio, vogliamo godere della natura ma piove. So it's not as though we're going to find any satisfaction, any lasting satisfaction. E quindi non troveremo nessuna soddisfazione duratura. And when what we perceive as hostile is bigger than us, that's when we have anxiety and fear. E quando ciò che percepiamo come ostile è più grosso di noi, allora lì è il momento in cui abbiamo l'ansia e la paura. If we go back a step, se andiamo un passo indietro, it's all dependent on this identity. È tutto dipendente da questa identità. So something about the wrong identity is creating a wrong relationship. Quindi qualche cosa che è correlato all'identità sbagliata crea una relazione sbagliata. Now, if we go back one step further, e se andiamo ancora un passo indietro, as we notice in our meditation, come abbiamo notato in meditazione, we find this position in ourselves of being the observer, the feeler, the one who experiences. Noi troviamo questa posizione dentro di noi di essere l'osservatore, colui che sente, colui che fa esperienza. We can only get there by disidentifying with our thoughts, with our emotions and our bodies. Noi possiamo arrivare lì solo disidentificandoci con le nostre emozioni, col nostro corpo. Ah. So there's this process of relocating our sense of identity. Questo processo di relocate, di cambiare la posizione del nostro senso di identità. Ah. So one example I usually give. Un esempio che io do di solito. When you trap your finger in the door, quando infili ti rimangono le dita nella porta. Just for that one moment, you are the finger. per quel piccolo momento tu sei il dito. You're completely flooded with the shock of the pain. Sei completamente inondato dallo shock del dolore. There's not me observing the pain. Non c'è io che osservo il dolore. Ah, so this is what we mean by identity. Questo è quello che si intende con l'identità. Now the next moment, of course, ma il momento successivo, naturalmente, the pain becomes an object. I'm looking at my finger. E il dolore diventa un oggetto ed io sto guardando il mio dito. And then I become angry. E poi divento arrabbiato. Ah, and kick the door. Do un calcio alla porta. Ah, so at this moment my identity is anger. E quindi in quel momento la mia identità è rabbia. So you can see that our identity moves, it shifts. E quindi possiamo vedere che la nostra identità si muove in turni. Yeah, later on, later on when I calm down. Più tardi, quando io sarò più, mi sarò calmato. I think about it. Penso a questa cosa. And in thinking about how it happened, I become my thinking. E nel pensare a come è successo, io divento i miei pensieri. I'm not observing my thinking, I am my thinking. Io non sto osservando i miei pensieri, io sono i miei pensieri. So this is your three basic identities. Sono le vostre tre identità di base. The body, the emotions and thinking. E il corpo, le emozioni e il pensiero. Now, in that position within ourselves of the observer, e in quella posizione dentro di noi dell'osservatore, we have disidentified with those three because they become objects. Noi ci siamo disidentificati da tutte e tre perché diventano oggetti. But I still feel myself to be somebody. Ma ancora sento che io sono qualcuno. And yet I'm aware of being aware. E tuttavia sono conscio di essere cosciente. This is what we mean by self-awareness. Questa è quella ciò che intendiamo per la per la consapevolezza di se stessi. Correct? Sì. No. Sì. Corretto? Sì, no. So when I'm self-aware, there's something in me that's being aware of itself. Quando sono autoconsapevole, c'è qualcosa in me che è consapevole di se stesso. So, quindi, by recognizing that, riconoscendo questo, I'm also beginning to disidentify. Incomincio anche a non mi riesce. Tutto insieme. Disidentificare. È impossibile. Ok. So, quindi, using that myth that I mentioned yesterday or the day before. Usando questo mito di cui ho parlato ieri o giorno prima. Of Narcissus. Narcissus, the Greek. Narcissus. Yes. Di Narciso. Who looks into the pool. Che guarda nella pozza d'acqua. And sees his reflection. E vede il suo riflesso. Usually this is meant to express pride and hubris and things like that. Di solito questo il significato viene dato come un mito che esprime l'orgoglio e pride. Sì, orgoglio. Pride. But you can also take it spiritually. Ma si può prendere anche dal punto di vista spirituale. When awareness looks into this psychophysical organism, quando la consapevolezza guarda dentro a questo organismo psicofisico, it gets back an image of itself. Vede un'immagine di se stessa. And a feel of itself. È una sensazione di se stessa. See, there's a feeling of a self. C'è una sensazione di se stessa. And it says to itself, this is me. E allora dice a se stessa, questo sono io. When Narcissus goes to embrace himself in the water, he falls into the water. Quando Narciso va a abbracciare se stesso nell'acqua, cade nell'acqua. And drowns. E affoga. When we, through that image, fall into the waters of the mind, quando noi attraverso questa immagine cadiamo nelle acque della mente, we drown in the creation of this world. Affoghiamo nella creazione di questo mondo. This bubble of consciousness that we experience. Questa bolla di coscienza di cui facciamo esperienza. The process of vipassana is to disidentify with everything that we have up until now identified. Il processo della vipassana è disidentificarsi con qualsiasi cosa che in cui fino ad oggi ci siamo identificati. So everything is about relationship. È tutto a riguardo della relazione. Everything is about ethics. È tutto riguardo all'etica. Everything is a moral, ethical problem when it comes to suffering. È tutto diventa un problema etico, morale, quando si arriva alla sofferenza. Now that's the Buddha's teaching. It's all about ethics. E questo è l'insegnamento buddista, tutto riguardo all'etica. So when you read, if you read the scriptures, it's all about how to relate to the world in a way that we do not cause ourselves suffering. Se leggete le scritture è tutto è tutto riguardo a come relazionarsi con il mondo in un modo tale che non ci causi sofferenza. And as we pointed out at another time, e come abbiamo già puntualizzato in un altro momento, once we realize this, una volta che abbiamo realizzato, compreso questo, once we realize that part of the escape from suffering is an ethical problem, che abbiamo realizzato che la fuga dalla sofferenza è un problema etico, then the path is about discriminating what is wholesome from unwholesome. A quel punto il sentiero diventa discriminare ciò che è salutare da ciò che non è salutare. What is virtuous and what is not virtuous. Cosa è virtuoso e cosa non è virtuoso. And the Buddha equates virtue with happiness. E il Buddha dice che la virtù è uguale alla felicità. Now, going back to the original awareness. Allora, ritornando alla consapevolezza originale. We're beginning to discover the nature of this intuitive awareness. Noi cominciamo a scoprire che la natura di questa consapevolezza intuitiva. And what the Buddha is saying is that this is something which does not belong. I use that word carefully. E il Buddha dice così: questo è qualcosa che non appartiene to the psychophysical world. Appartiene, dice, usate questa parola con attenzione, al mondo psicofisico. It is transcendent. È trascendente. It's transcendent. Okay. So here are this is the thrust, the thrust, come si dice? Il cuore. Cuore, yes. Cuore. No, thrust. Come si dice thrust? It doesn't matter. This is the avenue of his teaching. Sì, è la linea principale del suo insegnamento. In Italia we could say il cuore del suo insegnamento. This is the heart of his Buddha. Yeah, okay. Yeah. The heart of his. I was trying to get the idea of energy. Energy, okay. La strada maestra del suo insegnamento. Ecco, sì. Okay. When I was teaching recently at Gaia House, quando sono stato recentemente a insegnare a Gaia House, a meditator came to me, un meditante è venuto, who had been absorbing the teaching of secular Buddhism. era un meditante che aveva assorbito gli insegnamenti del buddismo secolare. And he was slightly disturbed. Era leggermente disturbato. Because when he actually read the scriptures, perché quando poi è arrivato a leggere le scritture, the teaching of rebirth is everywhere. E l'insegnamento sulla rinascita è dappertutto. It's actually in the Buddha's own process of liberation. È veramente nel processo di liberazione proprio del Buddha. When he awakens, he has these memories from past life. Quando si risveglia, gli ritornano le memorie delle vite passate. And what he sees is how moral decisions have led him up to this point. E quello che vede è come le decisioni morali lo hanno portato fino a questo punto. And in seeing beings moving from one realm to another, he realized. E mentre si vede che si sposta da un reame, da una vita a un'altra, he realized that what was a personal law was actually a cosmic law. E lui capisce che una legge personale è anche una legge cosmica. Ah, it applied to everybody. E si applica a chiunque. And he would say to all beings, all sentient beings. E lui disse a tutte le creature, gli esseri senzienti. Ah. So, the teaching as it comes through the scriptures is one of a continuous exploration of how to escape this continuous rebirth. E l'insegnamento che viene fuori da queste scritture è una continua esplorazione di come uscire da questo ciclo di rinascita. Ah. Now, the negative side is to work with all those things within us that are unwholesome. Il lato negativo è di lavorare con tutte quelle cose dentro di noi che sono non salutari. And the positive side is to live in the world in a positive way. E il lato positivo è vivere nel mondo in un modo positivo. Ah. So every morning when we chant the Metta discourse, tutte le mattine quando cantiamo il discorso di Metta, which actually is very early scriptures, che fa parte veramente delle scritture molto prime, insomma. You can see he's telling us how to live in the world. E si può capire come Buddha ci insegna come vivere nel mondo. Mm. And you have these social virtues, love, compassion, joy, and so on. Ci sono queste virtù sociali come l'amore, la compassione, la gioia. Quindi, this process he saw as something which would take many lifetimes. E lui vide questo processo come un qualcosa che può impegnare più vite, molte vite. And the essential spiritual teaching, e l'insegnamento spirituale essenziale, is that everybody in the fullness of time will become liberated from suffering. È che quando il tempo è compiuto, tutti saranno liberi dalla sofferenza. Ah. And now, that's to do with our ethical lives. E questo ha a che fare con la nostra vita, in senso etico. Yeah. On top of that, e inoltre, he points out that there is an experience which is transcendent of this whole human world. Ci mette in evidenza che c'è un'esperienza che trascende tutto questo mondo umano. He calls it Nibbana. E lui la chiama Nibbana. And there are many references to this in the scriptures. E ci sono molti riferimenti a questo nelle scritture. So it's difficult to understand how somebody reading the scriptures can reinterpret that as not being a transcendent experience. Quindi è difficile capire come uno che legge le scritture possa reinterpretarle come qualcosa che non è trascendente. Just to give you one example which is often questioned. Vi do un esempio di qualcosa che è spesso questioned. Doubted. Sì, di cui ci sono dubbi. By people who are coming from a different angle. Da persone che vengono da un angolo diverso, un punto di vista diverso. He says there is that which is not born does not die. Lui dice che c'è qualcosa che non è nato, che non muore. Is not conditioned. Non è condizionato. And he says if there were not this, e lui dice se non ci fosse questo, there wouldn't be an escape from what is born and dying and conditioned. Non ci sarebbe via d'uscita, via di scampo da ciò che è nato, condizionato. And the word is that is used there means exist. E la parola is la parola è che lui usa lì significa esiste. So they ask the Buddha when the Tathagata dies. Quindi è stato chiesto al Buddha quando il Tathagata muore. That's how he referred to himself, the Tathagata. That's how he referred to himself. Ah sì, questo è il modo in cui il Buddha si riferisce a se stesso, il Tathagata. Having gone there. That's what it means, having gone there. Il significato è essendo stato lì. Which we can translate as transcendent. Che noi possiamo tradurre come trascendenza. He often talks of Nibbana as an island. Lui parla spesso del Nibbana come di un'isola. Ah, you see, and we're making our way, we're swimming towards the island. E dice che noi ci arriviamo nuotando a quest'isola. Does the Buddha exist after he dies? Esiste il Buddha dopo la morte? Does he not exist? O non esiste? Does he both exist and not exist? Oppure in entrambe le cose, esiste e non esiste. And does he neither exist nor not exist? O anche does he neither exist? Né esiste né non esiste. Ah, so this was known as the quadrilemma. Questo era conosciuto come quadrilemma. Quadrilemma. Quadrilemma. Yeah, which we have a dilemma. E dilemma è due. Two. He had four. E questi sono quattro. I could quote those, but just to save time, I want to quote a nun. Farò solamente una citazione da una monaca per risparmiare tempo. She was a Thai nun. Era una monaca thailandese. And she was a peasant, virtually uneducated. Era una contadina, praticamente senza educazione. Who finally got permission from her husband to become a nun. E che alla fine ebbe il permesso dal marito di diventare monaca. She didn't have any of her own children, but she brought a child up of a related child, I think. Non aveva bambini, ma aveva cresciuto un figlio di un parente. You can read her biography, you can download it from the website. Si può leggere, si può scaricare da un sito. But this is her statement. Questo è il suo il suo ciò che lei dice. So ah, ma ci credo. No, I'll read it in English and then. Okay. Body, mind and essence. Corpo, mente e essenza are all distinct and separate realities. Sono tutte realtà distinte e separate. Absolutely everything is known. Assolutamente ogni cosa è conosciuta. Earth, water, fire and wind. terra, acqua, fuoco e vento. Now remember, these are the four basic feelings that exist when you go below a pain. Se vi ricordate, queste sono le quattro sensazioni di base che esistono quando si va sotto al livello del dolore. Earth is pressure, weight. C'è pressione. Water is elasticity, cohesion, chewing gum. L'acqua è elasticità, coesione e gommosità. Fire is anything to do with temperature, cool and hot. E il fuoco è tutto ciò che ha a che vedere con la temperatura, quindi sia freddo che caldo. And wind is movement. E il vento è il movimento. Or stillness, stiffness. O la rigidità, la fermezza. Body, feeling, memory, thought and consciousness. Corpo, sensazione, memoria, pensiero e coscienza. So these are your five aggregates. Sono i cinque aggregati. The body, feeling. Il corpo, la sensazione. Perceptions. Le memorie, percezioni. All our habits. Tutte le nostre abitudini. And consciousness. E la coscienza. And remember, consciousness is just this. Three-dimensional, multi-dimensional screen. Ricordate che la coscienza è come uno schermo multidimensionale. Sounds, sights, smells, tastes, touches. Suoni, immagini, odori, sapori, tocco e emozioni. And emotions, yes. These are the six sense bases. Queste sono le sei basi dei sensi, salayatana. Seeing, hearing, and don't forget the mind. E come guardare, e ascoltare, e non vi dimenticate della mente. Anger or aversion, greed and delusion. Rabbia, avidità e illusione. All are known. Sono tutti conosciuti. They're all experienced. Sono tutti... Di tutti ho fatto esperienza. I know them all as they exist. Io li conosco tutti per come esistono. In their own natural states. Nei loro stati naturali. But no matter how much I am exposed to them. Ma per quanto io possa essere a loro esposta, I am unable to detect even an instant. Non riesco a individuare un solo istante when they have any power over my heart. In cui abbiano alcun potere sul mio cuore. They arise and pass and cease. Sorgono e cessano. They are forever changing. Sono sempre mutevoli. But the presence that knows them, ma la presenza che li conosce, never changes for an instant. Non muta mai neppure per un istante. It is forever unborn and undying. È per sempre non nata e non destinata a morire. This is the end of all suffering. Questa è la fine di tutta la sofferenza. Sì. So, I've never seen a statement so clear as to how somebody who is enlightened or awakened experiences life. E non ho mai visto una frase che dimostra in modo così chiaro come una persona illuminata e risvegliata fa esperienza della vita. Even the Buddha. Nemmeno il Buddha. So, she's using three words. Essence. Lei usa tre parole. Essence. Essenza. Heart. Cuore, presence, presenza. Ah, so this is Satipanya. Questo è Satipanya. You'll also notice that she says that she's aware of anger, greed and delusion. E si noti anche che lei dice che è cosciente di rabbia, avidità e illusione. Okay. How can that be if she's liberated from all suffering? Come può essere questo se lei è liberata da tutte le sofferenze? It's understood that these habits have traces in the mind. Si capisce che queste tre cose lasciano delle tracce nella mente. Sì, vabbè. that leave trace in that. And that they don't go until the whole psychophysical organism dies. E non se ne vanno finché l'intero organismo psicofisico non muore. Ah, the technical word is vasana. Vasana? La parola tecnica è vasana. It's vasana. So, it's a case of us recognizing that whenever we're receiving the Buddha's teachings. E quindi è il caso di riconoscere che quando noi riceviamo l'insegnamento del Buddha, there is probably some bias. C'è molto probabilmente qualche condizionamento. And therefore we have to keep questioning our understanding. E quindi bisogna sempre interrogarsi sulla propria comprensione. But if I were to reduce the teaching to a very simple statement, se io dovessi ridurre tutto l'insegnamento a una frase molto semplice, the Buddha taught ethics. Il Buddha insegnò l'etica. Ah. And the reason was that our ethical life, e la ragione fu che la nostra vita etica, is an expression of our wisdom or delusion. È un'espressione della nostra saggezza o delle nostre illusioni. And that the process of undermining the delusion of identity, il processo che fa diminuire l'illusione dell'identità, is the discovery within us of something which is transcendent. È di scoprire dentro di noi qualche cosa che è trascendente. Ah. Once this nun had become liberated, quando questa monaca è diventata liberata, she just went back to her monastery to teach the nuns. E semplicemente se ne tornò al suo monastero a insegnare alle monache. So in the in Zen those 10 herding pictures, nello Zen ci sono queste figure, questi quadri del herding pictures. Sono 10 quadri. Ah. The last four of the last four pictures, le ultime quattro, is remember mountains and rivers. Se ricordate montagne e fiumi. Then there's a circle. Poi c'è un cerchio. So this is the transcendent moment. Quello è il momento della trascendenza. When the Arahat comes back into this world, quando l'Arahat ritorna in questo mondo, there are still mountains and rivers. Ci sono ancora montagne e fiumi. But the relationship is now radically changed. Ma la relazione è ora radicalmente cambiata. And the last picture is the Arahat coming into society to engage. E l'ultimo quadro, l'ultima figura è quella dell'Arahat che ritorna nella società e si coinvolge. This is the path we're on. Questo è il sentiero su cui siamo. I can only hope my words have been of some assistance. Io posso solo sperare che le mie parole siano state di qualche aiuto. That I have not caused even greater confusion. E che io non abbia causato una maggior confusione. That by constantly correcting your understanding, e che voi costantemente correggendo la vostra comprensione, and by your devotion to the practice, e con la vostra devozione alla pratica, you may be liberated from all suffering. Possiate essere liberati da tutte le sofferenze. Sooner rather than later. Prima piuttosto che poi. Sadhu, sadhu, sadhu. Ooh, that was. Hey, that was much better. So yes, I have to do a little bit more research to. I have to do a little bit more research just to fill out these four biases. E dovrò fare ancora un po' di ricerca per riempire tutti questi quattro condizionamenti. Yeah, just to see how we are receiving the Dharma. E proprio il modo in cui noi riceviamo il Dhamma. So I'll remind you in the last sitting. Ricorderò nell'ultima seduta. So tomorrow is really just a day of practice. Domani è semplice giorno di pratica. So it's a case of bringing all your virtues to bear on Friday. È il caso di portare tutte le vostre virtù lì nel venerdì. And it's an opportunity for you to work out any problems you have, you see. È un'opportunità per voi per lavorare su qualsiasi problema che possiate avere. In the end, you have to make teachers redundant. Alla fine dovreste fare in modo che il maestro diventi di troppo. No. Redundant, come si dice? Ridondante, ecco. Sì. Che significa ridondante? Is that the same? Di troppo. Scusi. mea culpa. Of course, I'm very happy to have an interview with you. Mi farà piacere fare un colloquio con voi. But only on three reasons. Ma solo su tre three reasons. Tre motivi. Ah, the first one is you are in a state of utter confusion. Il primo è che siete in uno stato di totale confusione. That some emotion or some mental state has come up which you're finding it difficult to be with. E che vuol dire che è venuto fuori qualche emozione, qualche stato mentale che veramente trovate difficoltà a starci insieme. And any amazing experience that you might have. E riguardo a qualsiasi esperienza meravigliosa che vi può capitare. Ah, yes. This I want to know, eh? Lo voglio sapere, eh? So let me just tell you now, in case you're thinking. Fatemi